L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, abbiamo poco tempo e molte cose da dire, è la formula inevitabile del nostro programma. In meno di un'ora dobbiamo riassumere le notizie e i personaggi più importanti dell'ultima settimana, cominciata sabato scorso 13 febbraio e che si è conclusa ieri venerdì 19 febbraio. Allora diamo subito la precedenza assoluta a chi è stato, suo malgrado, il re incontrastato delle cronache di questi giorni, ovvero Guido Bertolaso. Infatti il capo della Protezione Civile è da mercoledì 11 febbraio coinvolto nell'indagine della Procura di Firenze che sta indagando sull'assegnazione degli appalti delle opere dei grandi eventi, quindi si va dal G8 della Maddalena ai Mondiali di Nuoto di Roma fino alle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ci sono già stati arresti eccellenti, decine di indagati anche illustri. C'è già una dimissione fragorosa, quella del procuratore Achille Toro, che indagava, pensate, proprio sugli appalti del G8, poi è finito a sua volta invece sotto inchiesta. Ma restiamo su Bertolaso, che in questi giorni è stato uno e trino, nel senso che l'abbiamo visto nella sua ormai inconfondibile divisa della Protezione Civile, ma anche in giacca e cravatta in Parlamento, dove si è discusso il decreto sulla Protezione Civile. È stato a Ballarò e lì devo dire che insomma ha fatto una difesa accurata, con piglio di sé e della sua organizzazione, ci ha messo comunque la faccia, e poi subito dopo è volato in Calabria per l'emergenza frane. Tantissimi servizi andati in onda in questi giorni su Bertolaso e sulle indagini a lui comunque collegate. Riascoltiamo il servizio datato nel GR delle 13 di lunedì, firmato da Andrea Viali. Sono un servitore dello Stato, non un pirata anarchico. Con una lettera al quotidiano Repubblica, Guido Bertolaso torna a difendersi dalle accuse nei suoi confronti. Basta fango, dice il capo della Protezione Civile, il quale ricorda che l'operato del suo dipartimento è stato sempre soggetto a controlli da parte delle autorità di vigilanza. Per Bertolaso poi il crescente ricorso alla figura del commissario straordinario è il segno della difficoltà che le amministrazioni incontrano oggi nell'affrontare emergenze e questioni complesse con le sole leggi ordinarie. Nel frattempo, dai verbali dell'inchiesta emergono nuovi dettagli sulle intercettazioni, come quella che vede protagonista l'imprenditore Diego Anemone, mentre nel centro benessere Salaria Sport Village è in corso il presunto incontro a luci rosse fra Bertolaso e Monica, una ragazza brasiliana che sarebbe stata ingaggiata per l'occasione. Stasera con Guido ho guadagnato 500 punti, dice soddisfatto Anemone, ma non è tutto, perché secondo un'informativa della ROS, di cui dà conto oggi il Corriere della Sera, ad essere intercettati mentre conversavano con funzionari e imprenditori finiti nell'inchiesta sarebbero stati anche politici, come il coordinatore del PDL Verdini, il ministro delle Infrastrutture Matteoli e due parlamentari, Pepe e Viceconte, anche loro del PDL. Intanto l'inchiesta si allarga sempre di più, ormai la rete di intercettazioni si amplia, siamo arrivati a qualcosa come 20.000 pagine di faldoni, quindi veramente tante, alcune forse inutili pagine. Non ci sono per fortuna soltanto quelle a sfondo sessuale che eccitano così tanto, diciamo così, la fantasia di chi le legge e di chi scrive sui giornali, ma che poi hanno forse meno valore per i magistrati. Comunque tra i nomi degli indagati finisce anche Denis Verdini, quindi parliamo di un uomo di spicco del PDL. I dettagli con Maria Luisa Pezzali nei GR di martedì mattina. Denis Verdini è indagato per corruzione dalla Procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti di G8 e grandi eventi. La notizia è trapelata ieri sera al termine dell'interrogatorio del deputato fiorentino coordinatore del PDL davanti ai magistrati. È stato lo stesso Verdini a diffondere una nota in cui riferisce di aver sollecitato lui l'interrogatorio, di aver appreso di essere indagato dopo aver verificato in procura in seguito alla pubblicazione del suo nome sui giornali. Verdini infatti figura nelle intercettazioni telefoniche agli atti dell'inchiesta in numerosi colloqui con Riccardo Fusi, uno degli imprenditori indagati. In una di queste telefonate, secondo un rapporto dei Rossi, il parlamentare si sarebbe vantato di aver contribuito a far nominare provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta. Insieme al coordinatore del PDL sarebbe indagato anche il suo collaboratore Leonardo Benvenuti. Secondo il quotidiano La Repubblica, inoltre, nelle intercettazioni spunterebbe anche il nome del presidente del Senato, Renato Schifani, perché citato da Verdini in una delle conversazioni con Fusi. Allora siamo rientrati in studio, abbiamo già ampiamente cercato perlomeno di sviscerare il tema su Bertolaso, Verdini, nomi eccellenti che circolano nelle cronache di questi giorni. E io voglio lasciare da parte subito intercettazioni e dettagli a sfondo sessuale, insomma non parleremo di massaggi, escort, Salaria Village e quant'altro, magari qualche ascoltatore sarà scontento o cambierà canale, però insomma io credo che la sostanza, il punto centrale dell'inchiesta, siano altri rispetto appunto allo sfondo sessuale. Quindi voglio andare più nel merito del problema, dei problemi che sono tantissimi attorno a questa complicata, controversa questione, e quindi per questo ho chiamato in causa volutamente Mariano Maugeri, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Mariano. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, Maugeri, per chi non lo sapesse, ha avuto la possibilità di questi tempi, in questi anni, forse fortuna è una parola un po' grossa, comunque è riuscito a seguire da vicino Bertolaso, sia a Napoli, nel pieno dell'emergenza rifiuti, sia all'Aquila, in Abruzzo, purtroppo nei giorni tremendi, terribili del terremoto. E quindi, Mariano, se tu sei d'accordo, più che metterci qui a discutere se Bertolaso abbia o meno colpe, poi questo naturalmente lo diranno i giudici, anche se così da Chitto la sua posizione mi sembra comunque in parte diversa da quella di funzionari della protezione civile e imprenditori che sono finiti in carcere, credo che sia giusto interrogarsi, ed è un tema politico molto forte, sul sistema Bertolaso, cioè sulla sua gestione della protezione civile, glorificata fino a poche settimane fa, ora invece sul banco degli imputati. Tu che cosa hai visto in concreto sia a Napoli che all'Aquila da parte di Bertolaso? Ma guarda, io innanzitutto parlerei di un sistema riconducibile a Berlusconi, Letta e Bertolaso, o questa triade, perché è emersa questa triade con grande chiarezza e plasticità nei giorni del terremoto. Io ricordo che nella caserma di Compito, che diventò l'ombelico insomma degli aiuti della ricostruzione in una prima fase per almeno 2 settimane, poi lo è rimasta anche con il G8, e a chiunque si rivolgesse alla protezione civile per avere un aiuto, a chiunque ovviamente di alto grado livello politico o amministrativo in Abruzzo, gli si ripeteva sempre la stessa cosa, anche a livello imprenditoriale: rivolgetevi esclusivamente a 3 persone, il presidente Berlusconi, il sottosegretario Letta e Guido Bertolaso, non parlate con nessun altro. Ecco, già questo, come dire, delinea dei poteri, e la protezione civile in qualche modo, poi lo sappiamo bene, prima che Bertolaso diventasse sottosegretario faceva riferimento alla presidenza del Consiglio, e evidentemente si tratta di un'anomalia. Ecco Mariano, però questi poteri, chiamiamoli anche assoluti, dati in mano alla protezione civile e nella fattispecie a Bertolaso, venivano e sono giustificati con l'eccezionalità e l'emergenza della situazione. Basta come giustificazione? Sì e no. Cioè, giustamente in campagna c'era un problema emergenziale legato alla spazzatura, dove tra l'altro secondo me la protezione civile ha operato bene, perché ha avuto un approccio sistemico sul ciclo dei rifiuti, e quindi c'era un metodo in quel modo di lavorare che non aveva avuto nessuno in passato. E il terremoto dell'Aquila idem, è un terremoto, quindi c'è bisogno di un approccio anche lì emergenziale, di leggi speciali, però quando questo diventa un sistema e lo stesso sistema poi si applica anche al G8, che invece era previsto, prevedibile, quindi si sarebbe potuto affrontare anche con delle leggi ordinarie e non sempre facendo ricorso alla specialità, che poi è diventata un po' la cifra della protezione civile, allora lì sorgono dei dubbi. Evidentemente quella ormai era una macchina molto oleata, era un network di aziende che facevano riferimento alla protezione civile, e la Presidenza del Consiglio ha pensato di utilizzarla in modo strutturale anche per delle operazioni che emergenza non erano. Ricordo benissimo che nei giorni immediatamente seguenti al terremoto, per esempio, i panificatori dell'Aquila producevano, panificavano ogni giorno e non riuscivano a distribuire il pane, e lo chiedevano aiuto alla Protezione Civile, ma la Protezione Civile nel suo network aveva delle ditte, dei panificatori di Terni, per cui il pane arrivava da Terni e il pane prodotto all'Aquila dai panificatori aquilani veniva sostanzialmente buttato via, eliminato. E non voglio trasformare naturalmente l'ottavo giorno in un tribunale dell'Inquisizione, però se tu dovessi così anche brutalmente dire la tua su Bertolaso, come ti appare? Al di sopra di ogni sospetto? Anche lui colpevole di qualcosa, oppure magari come un renudo, cioè un capo della protezione civile che ha perso in parte il controllo del suo sistema e soprattutto il controllo sui suoi collaboratori e funzionari? Beh, a quel punto perdere il controllo penso che sia fisiologico, cioè non puoi controllare una macchina così articolata e così potente che negli stessi mesi si deve occupare della ricostruzione dell'Aquila e del G8, che repentinamente viene spostato dalla Maddalena all'Aquila. Io ricordo che in quei giorni parlai con il capo ufficio stampa della protezione civile e gli chiedi: scusa, ma adesso come farete? Avete un'emergenza incredibile all'Aquila, come fate anche a fronteggiare il G8? E lui mi disse: no, sdoppieremo la struttura, una parte sarà dedicata all'Aquila, al terremoto, all'Abruzzo, un'altra parte invece sarà riconvertita sul G8. Ecco, mi sembra un modo di procedere che già ha in sé, non in luce ma in modo piuttosto evidente, una serie di rischi, perché se tu devi coinvolgere le aziende con amplissima discrezionalità, è evidente che il rischio che poi queste aziende non siano cristalline o che possano poi prendersi delle libertà che altrimenti non sarebbe il caso che si prendessero è evidente. E allora, Mariana, invece, con un gioco di incastri per certi versi pazzesco e inquietante, in questi giorni le vicende di Bertolaso e di Verdini, di cui abbiamo già ampiamente parlato, si sono sovrapposte anche, per esempio, all'arresto a Milano dell'assessore Mirko Pennisi, e in questo caso mi sembra che siamo di fronte ad una pura e semplice mazzetta, esattamente come poi accadde nell'ormai lontano, ma sembra ieri, 17 febbraio 92, c'è stato l'anniversario in questi giorni, accade l'arresto di Mario Chiesa, che diede il via poi a mani pulite. Quindi le coincidenze tra l'altro non finiscono qui, perché mercoledì arriva la relazione della Corte dei Conti, che guarda caso si collega anche questa alle vicende di cui abbiamo appena parlato. Sentiamo un servizio di Adriana Fracchia su questo e poi ne discutiamo insieme. La corruzione è triplicata in un anno e la Lombardia risulta la regione più esposta, seguita da Campania, Sicilia, Lazio e Puglia. È l'allarme che arriva dalla Corte dei Conti, che domani aprirà l'anno giudiziario alla presenza del Presidente della Repubblica Napolitano. Le denunce sono aumentate del 229% e lo Stato ha perso 69 milioni di euro per le mazzette. Aumentano anche le denunce per concussione, sono più che raddoppiate e registrano un più 153%. E se nel 2008 la voce tangenti, corruzione e concussione rappresentava l'8,6% delle tipologie di danno nelle citazioni in giudizio, nel 2009 si è passati all'11%. Lo scorso anno il servizio anticorruzione del Viminale ha lavorato da gennaio a novembre a 1714 denunce per abuso d'ufficio, 221 per corruzione e 219 per concussione, un fenomeno che per la Corte dei Conti continua a rappresentare caratteristiche di estrema gravità. Siamo di nuovo in compagnia di Mariano Maugeri, collega del Sole 24 Ore. Stiamo parlando di Bertolaso, ma poi il discorso si è naturalmente espanso, come ci ha anche fatto capire il contributo della Corte dei Conti, insomma, che ci ha detto senza mezzi termini che la corruzione ormai è un fenomeno dilagante, quasi patologico, anzi patologico nel nostro paese. Tra l'altro poi negli ultimi tempi le cronache sono davvero affollatissime, perché seppur diversi tra loro abbiamo visto i casi di Bologna con Del Bono, magari c'è di mezzo un bancomat, poca cosa, però direi che è comunque un fatto emblematico. Poi la sanità pugliese con anche qui mazzette e appalti in gioco, poi le indagini in Toscana, a Vercelli, a Cosenza, quindi si va di fatto da nord a sud e anche da destra a sinistra, non è un problema naturalmente solo che riguarda il governo, la maggioranza e Berlusconi. E quindi, Mariano, ti voglio chiedere se Tangentopoli è tornata, domanda che circola molto in questi giorni, oppure di fatto non se n'è mai andata dalla nostra Italia, oppure, come dice Berlusconi, siamo di fronte a pochi birbantelli, insomma, cercando anche un po' di minimizzare il fenomeno. No, temo che non siano pochi birbantelli e che anche lì ci sia stata una degenerazione, un po' tornando sulla protezione civile, cioè troppo potere concentrato in pochissime mani genera questo sistema e anche la classe politica locale che ormai detiene fortissime risorse. Parliamo di comune nel caso di Milano, ma potremmo parlare di regioni, cioè in questo paese ormai il federalismo è cosa fatta, i governatori delle regioni, solo per fare un esempio, hanno un potere enorme e hanno un potere soprattutto nel sud di vita e di morte sulle risorse pubbliche che prima che ci fosse regionalismo venivano in qualche modo redistribuite da Roma con meccanismi anche, se vuoi, casse di compensazione. Adesso invece la compensazione non c'è più, il governatore sul quale modello di potere poi adesso Berlusconi vorrebbe fare la riforma del governo, della forma di governo italiana, decide sostanzialmente in Calabria, in Campania, in Sicilia, quindi regioni che hanno una forte dipendenza dalla spesa pubblica, dove interi settori dell'economia sopravvivono grazie alle provvidenze pubbliche, appunto i governatori decidono quindi la sopravvivenza o la morte o la fine di intere aziende o settori economici. Questo credo che poi produca una spinta inevitabile, quasi fisica, alla corruzione. Allora, Mariana, abbiamo ancora 30 secondi, li voglio spendere sul controverso decreto sulla protezione civile che è passato in questi giorni in Parlamento e in particolare alla Camera. È stato modificato in corsa, la maggioranza ha fatto dei passi indietro. A tuo giudizio, cosa sarebbe diventata, secondo la sua stesura iniziale, la protezione civile e cosa invece diventerà dopo l'approvazione di ieri alla Camera? Sarebbe diventata una conglomerata, cioè una grande azienda, una sorta di holding capace di gestire e affrontare qualunque tipo di evento, o con le sue aziende, con i suoi uomini, con la sua policy, con le sue politiche. E io credo che non ci sia però bisogno di queste strutture, appunto, con una enorme concentrazione di potere e con enormi fondi a disposizione. Io credo che, tranne nei casi in cui ci sono appunto catastrofi, cataclismi, che poi non sono tantissimi, si dovrebbe tornare all'ordinarietà, cioè alle leggi, al controllo di quelle leggi da parte dei cittadini o di chiunque abbia competenza, come la Corte dei Conti, i giudici contabili, tenendo conto del fatto che in Italia però forse i giudici contabili sono veramente pochi rispetto alla massa di controlli che andrebbero fatti nella pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, soprattutto al sud, insisto sul mezzogiorno perché io penso che il mezzogiorno rappresenti un caso a sé stante, perché si sta prosciugando via via, si è desertificata l'economia reale e quindi il denaro pubblico diventa l'unica fonte di sopravvivenza di intere regioni. Ecco, questo secondo me deve trovare dei contrappesi, deve trovare una nuova organizzazione regionale e probabilmente anche una nuova organizzazione statuale, perché la democrazia è fatta appunto di bilanciamento. Al potere A deve corrispondere il contropotere o il contrappeso B. Se il potere A decide di chiunque e ha i poteri per farlo, senza che nessuno possa alzare un dito tranne la magistratura, è evidente che assisteremo via via ad altre degenerazioni di questo tipo. E dunque Mariana Maggeri ha toccato anche in fondo un tema importantissimo, ampio, quello anche della trasparenza, di regole chiare nelle gare pubbliche, soprattutto di appalto. Naturalmente ci vorrebbe anche una semplificazione della burocrazia, che spesso è d'impaccio anche quando ci sono eventi straordinari come il terremoto o i rifiuti di Napoli. Io ringrazio però caldamente per il suo intervento appassionato Mariana Maggeri del Sole 24 Ore. Tocchiamo adesso, dopo le vicende di Bertolaso, la protezione civile e quant'altro, tocchiamo adesso un altro tema molto sensibile, molto delicato. Un tema che possiamo dire spacca, nel senso che divide sia l'opinione pubblica che la politica, un tema naturalmente che appassiona, ma che sicuramente non si può ignorare a prescindere dal punto di vista dal quale lo si guarda. Sto parlando del tema gigantesco, fondamentale per il presente e soprattutto il futuro del nostro paese, cioè l'immigrazione, e lo facciamo tornando con la cronaca sabato scorso a Milano. Purtroppo si tratta di cronaca nerissima, perché ci sono di mezzo una rissa, un morto, una lunga notte di guerriglia. Tutti i particolari li riascoltiamo in questo servizio di domenica mattina di Irene Privitera. Una banale lite finita nel sangue, viale Padova, Milano, è un quartiere multietnico dove i piccoli scontri sono ordinaria amministrazione. Questa volta però un giovane egiziano, non ancora 20 anni, ne ha pagato le conseguenze con la vita. È successo ieri, poco prima delle 18, per mano di un gruppetto di latinoamericani che hanno ferito gli altri due nordafricani che si trovavano con la vittima. Attorno al suo corpo si è raccolto un centinaio di extracomunitari mentre le forze dell'ordine isolavano la zona. Da lì la guerriglia, egiziani e marocchini, quasi tutti giovanissimi, raccontano i testimoni, armati di spranghe hanno ribaltato le auto, devastato i negozi, aggredito i sudamericani di Viale Padova. Alcuni si sono mossi in corteo fino al consolato egiziano. A tarda sera, fra i presenti, c'era anche uno dei rappresentanti del comitato di quartiere, Roberto Callegari. Noi giovedì prossimo alle 18.30 spegniamo le luci dei negozi per 10 minuti per dare un segnale. Via Padova deve essere riqualificata. E noi abbiamo raccolto 8.000 firme da Via Padova, le vie limitrofe, Viale Monza. Viale Padova è rimasto transennato per ore, durante le quali è proseguita la caccia all'uomo mentre gli scontri si spostavano nelle vie parallele. Intorno alle 22.30 la polizia ha messo al muro una 30ina di magrebini, portandone via almeno 10 su auto e camionette. Ha ascoltato il servizio insieme a noi Francesca Padula, giornalista del Sole 24 Ore, che ormai da tantissimo tempo segue da vicino e concentrata sul macro tema immigrazione. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Allora Francesca, noi ci ritroviamo qui all'ottavo giorno, praticamente un mese dopo i fatti di Rosarno, sui quali abbiamo ampiamente riflettuto appunto a suo tempo. Per chi non se lo ricordasse, Rosarno, paese della profonda Calabria, dove ci fu questa rivolta degli immigrati che lavoravano nell'agricoltura e che erano esasperati dalle condizioni disumane, insomma barbare, nelle quali vivevano. Poi c'era tutto un contesto naturalmente legato all'Andrangheta. Naturalmente le differenze tra Rosarno e Milano sono evidentissime, sia sul piano ambientale che poi sul piano dei moventi che hanno scatenato questa notte terribile di Milano e la rivolta prima di Rosarno. Però noto, Francesca, non so se sei d'accordo con me, che spesso poi la politica, il pensare comune, alla fine fa sempre gli stessi discorsi quando ci sono di mezzo gli immigrati, non guardando bene le differenze. E allora ti chiedo, c'è invece un filo rosso che può andare da nord a sud, cioè da Rosarno a Milano? Per esempio Saviano, subito dopo i fatti di Milano, ha derubricato le vicende di via Padova a semplice problema di ordine pubblico. È soltanto questo? Beh, guarda, in realtà un filo rosso, c'è un identikit dal punto di vista proprio sociografico che è molto simile, perché sia a Rosarno che in Viale Padova a Milano il problema è nato tra giovani uomini soli, cioè sono immigrati, appunto quelli di Milano, anche quelli di Rosarno, in parte irregolari, in parte col permesso di soggiorno. Però si tratta di quelli che poi in realtà vivono ammassati in condizioni abitative pessime e a volte sono, quindi senza famiglia, e a volte sono proprio, diciamo, si affidano per qualsiasi cosa a una sorta di capo clan, capo comunità che poi li gestisce. Ecco, quindi questa è un po' la cosa comune. Poi sicuramente è diverso l'ambiente, perché prima nel servizio appunto si diceva che Viale Padova è un quartiere multietnico di Milano, e queste realtà sono, a Milano come a Roma, a Torino eccetera, sono realtà molto diffuse, molto fragili, aree appunto, come diceva prima il protagonista italiano, insomma l'inquilino di Viale Padova italiano, bisogna riqualificare, e qualche esempio positivo c'è. Ecco, allora forse più che fare i paragoni con Rosarno, visto che parliamo di contesti di periferia, di metropoli, insomma, piuttosto grande come Milano, forse è giusto fare i paragoni con altri contesti europei. Naturalmente la vicenda, il caso più eclatante degli ultimi anni è quello delle banlieue parigine, e quindi si può fare invece un nesso tra Milano e Parigi, e a questo punto naturalmente il problema dovrebbe chiamare in causa la politica, che forse in queste periferie è più assente che altrove. Allora, punti in comune, differenze con Parigi. Per fortuna sono realtà molto diverse. Le periferie parigine sono quelle che negli anni 60 erano appunto quartieri dormitorio intorno alle zone più industrializzate, che sono state abbandonate dai francesi e abitate dalla seconda generazione degli immigrati, cioè gli immigrati che hanno poi protagonisti di questi grandi scontri del 2005 che tutti ricordiamo, sono però cittadini francesi, cioè sono immigrati di seconda generazione. Non sono così le periferie italiane, non sono così le periferie né di Milano né di Torino, e quindi sicuramente da questo punto di vista ci sono delle grandi differenze rispetto a Parigi. Un unico punto comune che dopo questi fatti del 2005 a Parigi ci sono degli episodi che tornano. E questo appunto è una cosa da cui bisogna stare attenti, cioè questo di Viale Padova deve essere veramente considerato un allarme, e bisogna stare attenti che questi fatti non si ripetano poi a distanza di poco tempo, o che non si riscatenino delle piccole rivolte. Ecco. Ecco, naturalmente, come ho detto prima, è giusto che, anzi è doveroso che la politica raccolga questo allarme, lo faccia proprio e cerchi di pensare a dei rimedi. Io devo dire che in questi giorni ho trovato interessante, oserei dire quasi stimolante, il comportamento della Lega, un po' meno scontato rispetto a quello che è il canovaccio sul quale poi la Lega spesso si agita su questi temi. Cioè abbiamo sentito naturalmente Salvini che ha parlato di rastrellamenti, insomma un po' sopra le righe, però invece completamente diverso il comportamento di Bossi e soprattutto del ministro degli interni Maroni, molto più pacato nell'amministrare, nel gestire le parole in questa vicenda, e soprattutto ha puntato il dito anche su per esempio gli italiani che affittano agli immigrati, in questo caso clandestini, che quindi sarebbero a loro volta corresponsabili di un reato, e quindi giustamente da colpire. Quindi la Lega forse ha cambiato un po' il tiro, al di là poi del fatto che per esempio Maroni a caldo ha elogiato per esempio Padova, che è una città di centrosinistra, nel modo in cui ha amministrato la vicenda dei migranti, creando sconquassi interni poi alla Lega. Certo. No, allora, due cose. Innanzitutto proprio quello dell'affittare agli immigrati senza permesso di soggiorno è un reato che il pacchetto sicurezza di agosto, quindi il pacchetto sicurezza voluto dal ministro Maroni e quindi anche dalla Lega, ha inasprito. Noi sappiamo che la condanna è quella di, cioè c'è una reclusione da 6 mesi a 3 anni e la condanna con provvedimento irrevocabile comporta anche la confisca dell'immobile. Quindi se fosse realmente applicata una cosa del genere, ma non mi sembra che sia così anche dalla relazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, quindi è una cosa abbastanza recente, quindi le sanzioni ci sono però non vengono applicate. Questo probabilmente è una cosa che nella gestione quotidiana anche il ministro Maroni sa che è così, così come sul fronte delle espulsioni, che è l'altro tema caldo, il governo italiano sa benissimo che espulsioni porta per porta, espulsioni palazzo per palazzo non se ne possono fare. Ecco, quindi è stata una, come dicevi tu, sicuramente una delle dichiarazioni, una presa di posizione più matura nei confronti e più consapevole nei confronti dei problemi dell'immigrazione. Diciamo più di governo e meno di lotta da parte della Esatto, Lega. Molto più di governo. E poi appunto il problema è che quello che insegna anche Parigi è che poi bisogna fare delle vere e proprie cure, andare a fare degli interventi. Anche Torino e anche... Per tornare a Padova, è quindi il famoso muro di Vianelli di cui tu prima parlavi, lodato, comunque l'esperienza lodata dallo stesso ministro Maroni, sono due casi, San Salvario e il muro di Vianelli, in cui oltre a costruire il muro però poi ci sono stati degli interventi che hanno svuotato il ghetto, quindi degli interventi che hanno dato dei frutti. Io tra l'altro sono di Padova, quindi conosco abbastanza bene la situazione e posso dire che effettivamente lo scenario in Vianelli è cambiato dal giorno alla notte, insomma, dopo questo intervento discusso e discutibile del muro, però comunque ha portato a dei risultati. Di solito la parola magica poi che entra in gioco quando si parla di immigrazione è quella dell'integrazione. Naturalmente se questa ci fosse, se fosse perfetta, probabilmente non ci sarebbero tanti problemi che invece sono all'ordine del giorno. E si dice spesso che per una matura integrazione bisogna sperare nelle giovani generazioni. Però giovedì è stata presentata alla Camera una ricerca molto interessante sul rapporto tra giovani generazioni e razzismo, che direi mi ha personalmente gettato nello sconforto, vuol dire forse che c'è ancora molto da rivedere e da pensare. Sentiamo allora il resoconto di questa giornata alla Camera con Maria Calagrandis e poi ne discutiamo insieme a Francesca Padula. Sono razzisti! Noi siamo umani come voi! Lo gridavano i braccianti africani della rivolta di Rosarno il mese scorso. Ora anche ragazzi italiani sono convinti che il razzismo sia un fenomeno in aumento nel nostro paese. Ed è anche il 45% di loro ad esserlo. Sono i dati della ricerca Io e gli altri, promossa dalla Conferenza delle Assemblee delle Regioni e dall'Osservatorio sulla Xenofobia della Camera dei Deputati. Per gli oltre 2.000 ragazzi fra i 18 e i 29 anni intervistati, la paura dello straniero deriva dal binomio immigrazione-delinquenza, stereotipi, dall'aumento dei flussi migratori. Nessun timore invece di perdere la propria identità culturale. Fra le popolazioni più temute dai giovani italiani ci sono arabi e musulmani. Non vorrebbero che la loro figlia sposasse uno di loro. Meno ancora un romeno, un albanese. Inammissibile avere un capo rom. Lo spiega Enzo Risso, curatore della ricerca. Un'etnia che viene percepita come pericolosa, truffaldina, come insomma, una che alimenta il senso di insicurezza. E lo alimenta non solo nelle persone che sono in qualche modo intolleranti, già volte alla chiusura, ma anche verso la parte che invece è aperta. Ecco. Per gli intervistati solo le associazioni di volontariato sono impegnate contro l'intolleranza, meno la scuola e la chiesa. Insufficiente la politica, alla quale il presidente della Camera Gianfranco Fini rivolge un appello. Usciamo dalla logica di quanti voti può portare una posizione sulle questioni connesse alla integrazione e al rapporto con lo straniero. Anche su Facebook si moltiplicano i gruppi razzisti. Fra ottobre e novembre erano più di 300 quelli anti-immigrati, ma altrettanti quelli contro i napoletani. E allora ci si chiede come sia possibile l'integrazione fra italiani e stranieri se ancora i giovani settentrionali e meridionali, secondo la ricerca, si trovano antipatici a vicenda. Francesca Padula, ti concedo l'ultimo minuto di questo spazio per rispondere a una domanda che mi sorge spontanea sentendo il servizio di Maria Calagrandis. I giovani italiani sono razzisti o comunque lo stanno diventando sempre di più? E i giovani italiani sono razzisti perché il volto dell'immigrazione che li spaventa, che li preoccupa, è proprio il volto che dicevamo prima, cioè degli uomini giovani, uomini soli, e questo è difficile che venga percepito come un fenomeno positivo. Quindi è proprio un problema di protezione probabilmente che loro chiedono. Naturalmente in questo ha ragione Fini, cioè c'è bisogno appunto che sia la politica per prima a fare un atto da prendere coscienza, ecco, appunto, del fatto che i giovani non devono assolutamente avere dell'immigrazione soltanto il volto della paura. L'immigrazione in Italia, lo confermano i dati dell'Istat di questa settimana, è un fenomeno che appunto nelle prossime generazioni raggiungerà dimensioni ancora molto importanti, imponenti, che non si ferma, ecco, non è soltanto il problema di regolare gli ingressi, è un problema che ai giovani va spiegato questo. Ecco, la politica, io aggiungo anche la scuola, che deve fare naturalmente il suo dovere, e su questo poi forse la politica deve essere più attenta alla scuola rispetto ad altre cose. Qui ci fermiamo, grazie a Francesca Padula per il contributo su questo tema molto delicato e molto controverso. Stavo meditando su come si è sviluppata questa puntata dell'Ottavo Giorno, piuttosto insolita rispetto al nostro abituale schema, perché di solito abbiamo tanti argomenti e tanti servizi frullati tutti insieme, invece oggi ci siamo concentrati così su due temi fortissimi come l'immigrazione e poi tutta la vicenda di Bertolaso e della protezione civile. Dunque cerchiamo un po' di recuperare altre notizie in questa ricca settimana, nei minuti finali che ci separano dalla sigla di coda. E cominciamo dall'economia e dalle parole di Draghi pronunciate sabato scorso a Napoli, dove c'era l'inviata di Radio 24, Deborah Rosciani. L'Italia sta uscendo dalla crisi, ma il tasso di crescita è ai minimi europei. Al 16° Forex, il congresso annuale degli operatori finanziari quest'anno a Napoli, il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi esprime un richiamo forte sulla ripresa economica e davanti a banchieri ed analisti spiega che la ripresa globale è in corso ma in modo difforme. Per l'Italia il recupero è lento, con ampie incertezze legate al ciclo internazionale e alle condizioni del mercato del lavoro. La quota di popolazione potenzialmente attiva, che è al momento forzatamente inoperosa, cioè tutti quelli che non lavorano, è elevata e crescente. Finché la flessione dell'occupazione non si inverte, permane il rischio di ripercussioni sui consumi, quindi sul prodotto. Draghi riconosce che l'economia italiana ha resistito all'impatto della crisi meglio di altre, ma la perdita di produzione e reddito è ingente. Occorre tornare alla crescita economica, che è base di benessere, dice, e presupposto della stabilità finanziaria del paese. Ecco la ricetta del governatore. Di questa crescita ne sono condizione le riforme strutturali, la cui mancanza ha segnato la perdita di competitività del paese che dura da un quindicennio. Poi sul fronte economico si è creato un caso attorno ad un presunto buco piuttosto consistente di svariati miliardi nei conti pubblici italiani. Non è certo una novità nella storia della politica ma anche del giornalismo italiano, e sta di fatto che martedì Tremonti è costretto ad intervenire. Sentiamo i dettagli con Anna Marino. Giulio Tremonti smentisce le indiscrezioni di stampa secondo le quali ci sarebbe un buco di 9 miliardi nei conti pubblici italiani. Non esiste alcun tipo di buco, ha detto il ministro dell'economia a margine dell'Ecofin di Bruxelles. Diciamo che è un non problema, ha precisato. Inoltre ha rassicurato come l'esposizione delle banche italiane in Grecia sia molto bassa rispetto ad altri paesi. Il sistema Italia, ha detto citando i dati della banca dei regolamenti internazionali, è esposto per circa 8 miliardi di euro, mentre quello tedesco per 35 miliardi e quello francese per 80 miliardi. Il ministro ha quindi ribadito come in generale nell'ambito della crisi finanziaria degli ultimi 2 anni il sistema italiano ha tenuto. Anche rispetto alle pensioni, secondo Tremonti, il nostro paese ha un diverso punto di partenza. Sulle pensioni io credo che molti hanno dei problemi, non l'Italia, perché il coefficiente di copertura necessario è 1,4 per l'Italia, per la Germania è 4,2, la media europea è 6,5. Quindi è un problema, ma non è un problema per l'Italia, perché noi la riforma l'abbiamo già fatta. Intanto, sullo sfondo, il quadro di arrivo dell'Ecofin si concentra in una stretta sorveglianza e in un maggiore impegno che i ministri finanziari europei chiedono ad Atene. Di economia ha parlato mercoledì anche Obama, il presidente americano, che è tornato sullo stimolo all'economia ormai ad un anno proprio dalla sua entrata in vigore. Di fatto è stato il primo grande intervento nel pubblico di Obama da quando è alla Casa Bianca. Il presidente ha difeso naturalmente le sue scelte, ha detto di aver evitato una seconda grande depressione, ha detto di aver salvato 2 milioni di posti di lavoro e si è anche aggrappato ai dati confortanti del PIL americano, che è in crescita. Infatti nel quarto trimestre del 2009 c'è stato un confortante più 5,7% e poi anche le stime per il 2010 sono di segno positivo. Però il suo discorso è stato accolto con una certa freddezza dal popolo americano, perché ci sono dei dati pur sempre allarmanti, la disoccupazione viaggia intorno al 10%, quindi siamo veramente a cifre terribili. Poi c'è un nuovo sondaggio invece secondo il quale il 52% degli americani oggi non voterebbe più Obama. Detto questo, Obama in questi giorni ha fatto forse più rumore per l'incontro con il Dalai Lama di giovedì. Sentiamo Sergio Nava. Alta tensione sull'asse Washington-Pechino dopo l'incontro tra Obama e il Dalai Lama, fortemente insoddisfatto, così il Ministero degli Esteri cinese si è detto per il meeting, accusando gli Stati Uniti di aver violato sia l'impegno esplicito a non sostenere l'indipendenza tibetana sia le norme internazionali. Il comunicato si chiude con l'invito a Washington affinché muova dei passi per riportare sui giusti binari i rapporti bilaterali. Lo schiaffo cinese è giunto al termine di una giornata alquanto strana nei rapporti sino-americani. Obama ha sì incontrato il Dalai Lama, ma lo ha fatto sotto traccia, scegliendo una sala secondaria della Casa Bianca, la Map Room, ed evitando accuratamente di farsi riprendere dalle telecamere, per poi giustificarsi col fatto che l'ospite non era capo di Stato. Abbastanza esplicito, al contrario, il messaggio finale: forte sostegno della Casa Bianca per il rispetto dei diritti umani dei tibetani in Cina, sostegno per la protezione dell'identità religiosa, culturale e linguistica del Tibet. Così Washington, che non ha dimenticato di aggiungere un contentino, rivelatosi però inutile per Pechino, ricordando la necessità di un rapporto positivo e di cooperazione tra Stati Uniti e Cina. Più diplomatico il Dalai Lama, unico a presentarsi davanti ai giornalisti. I'm very happy and, as usual... Sono molto contento dell'incontro, incentrato sulla necessità di promuovere la pace, i valori umani e l'armonia religiosa. In Cina, intanto, montava la rabbia nei palazzi del potere. E sempre lungo la sottile linea della diplomazia c'è stato un vero e proprio incidente tra Libia e Svizzera, il quadro della situazione di lunedì con Valentina Furlanetto. C'è chi la definisce una reazione e chi pronuncia esplicitamente la parola ritorsione. Sta di fatto che la Libia ha sospeso la concessione di nuovi visti d'ingresso ai cittadini dei paesi Schengen, nonché la validità dei visti già rilasciati. Gheddafi risponde così alla lista nera stilata dalla Svizzera, in cui il governo di Berna indica i nomi di 188 libici indesiderati nella Confederazione, fra i quali lo stesso colonnello. Quella libica è una decisione unilaterale e sproporzionata, secondo la Commissione europea. E mentre il ministro degli esteri Franco Frattini punta il dito verso la Svizzera, che prende in ostaggio tutti i paesi dell'area Schengen, ha detto, Margherita Boniver, presidente del comitato parlamentare su Schengen, parla di atto autolesionista. Provvedimento incomprensibile e autolesionistico dal punto di vista libico, non intacca ben inteso i buonissimi rapporti che tradizionalmente intercorrono fra l'Italia e la Libia, e però dobbiamo anche dire che tutto questo è assolutamente inaccettabile. Le relazioni fra Tripoli e Berna hanno iniziato a deteriorarsi dall'arresto nel luglio 2008 del figlio di Gheddafi, accusato con la moglie di aver maltrattato due dipendenti di un albergo di Ginevra. Bisogna dire che alla fine la crisi tra la Libia e la Svizzera è rientrata grazie anche alla mediazione italiana, e dunque siamo arrivati praticamente ai titoli di coda di questa puntata. Tanto, devo dire, è rimasto fuori dalle nostre cronache, per esempio Sanremo, non abbiamo parlato del festival, io francamente ho seguito poco, però non ho potuto fare a meno di leggere i giudizi durissimi, gli editoriali furiosi nei confronti della coppia Pupo Emanuele Filiberto, insomma una canzone che davvero non è piaciuta a nessuno. Poi ha fatto il giro del mondo la storia di Ray Gosling, nome di spicco della BBC, che è stato arrestato mercoledì e poi rilasciato il giorno dopo su cauzione per aver confessato di aver ucciso con un cuscino, lo ha soffocato, il compagno malato terminale di AIDS. E naturalmente su questa storia si è aperto un ampio dibattito. Non abbiamo neanche parlato delle Olimpiadi di Vancouver, c'è tanto spettacolo, purtroppo le ore notturne non sono proprio le migliori per seguire questi avvenimenti, magari la settimana prossima faremo un po' un resoconto complessivo di quello che è successo. Allora chiudiamo qui, ottavo giorno at radio24.it la nostra mail. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 9. Naturalmente siamo tutta la settimana sul sito radio24.it.